24 Mattino di Simone Spezia e con Maria Latella. Alle 8 e 17 minuti inizia la terza parte di 24 Mattino di questo mercoledì 8 aprile. Care ascoltatrici, cari ascoltatori, di nuovo buongiorno da Simone Spezia e buongiorno Maria Latella. Buongiorno, buongiorno Simone, buongiorno agli ascoltatori, ai quali come sempre do un flash su quello che dicono all'estero. Dai. E guardate, in Gran Bretagna c'è sì grande preoccupazione per il vuoto di potere che si è creato, perché c'è Boris Johnson, il premier, in ospedale, e uno degli uomini forti del suo governo, Gove, anche lui raggiunto dal Covid-19, ma c'è anche molta preoccupazione, e ne parlano sia la BBC che il Guardian, sul fatto che se le scuole resteranno chiuse a lungo ci sarà un danno per le famiglie, per gli studenti e anche per il prodotto interno lordo della Gran Bretagna, che ospita tanti studenti. C'è a questo proposito una ricerca della pubblicazione scientifica tra le più prestigiose, The Lancet, secondo la quale chiudere le scuole per il coronavirus non ha questo grande impatto. Dice The Lancet: mentre quando ci sono grandi epidemie influenzali può esserci questa soluzione, chiudi le scuole perché i bambini lo prendono facilmente, il raffreddore, l'influenza, con il Covid-19 questa evidenza non c'è, e dunque The Lancet comincia a insinuare il dubbio che forse in Gran Bretagna le scuole debbano riaprire prima. Qui in Italia non è ancora, non si è ancora acceso il dibattito, ma secondo me qualcuno comincerà a chiedersi: se si aprono le aziende, i genitori vanno al lavoro, dove vanno i ragazzi? E comunque, se anche non si possano aprire le scuole, almeno facciamoli lavorare a distanza a luglio, facciamogli recuperare un po' del tempo perso. Ce l'hai un po' questa cosa, i ragazzi devono andare a scuola anche a luglio. Siamo in vacanza pasquale. Siamo in vacanza pasquale. In questi giorni vacanza e vabbè. È così. Comunque vedremo se qui si parlerà anche in Italia, come se ne sta parlando. Sì, ricordiamoci sempre però, ricordiamoci sempre che quando parliamo di riapertura delle scuole non è che parliamo solamente dei ragazzi. Parliamo anche di tutto il personale scolastico, parliamo del fatto che i ragazzi in qualche modo a scuola ci devono arrivare, e questo vuol dire riempire i mezzi pubblici, vuol dire ricominciare a far girare le persone. Ma si può fare la scuola a distanza qualche settimana dopo. Questo dico. Almeno fai recuperare un po' di tempo, no? Come la stanno facendo a distanza ora, invece di chiuderla, secondo me, scandalosamente ai primi di giugno, si potrebbe tenere un po' di più. Fai a distanza, lavori ancora un po' di più tu insegnante, fai lavorare ancora un po' i ragazzi che recuperano in realtà il tempo perso. Sta ragionando su una riapertura anticipata, cioè si parte all'inizio di settembre, cioè si chiude a giugno, però si riparte all'inizio di settembre invece di partire come al solito il 15, il 20 e via dicendo. E anche quella potrebbe essere una soluzione. Vedremo. Primo tema di oggi: le mascherine. Allora, una maledizione, continuiamo a parlarne da settimane per tanti motivi. Innanzitutto perché gli esperti continuano a non dirci una parola chiara sul vanno messe, non vanno messe. A questo punto diciamo che è meglio metterle, punto e basta. In secondo luogo perché ci sono delle regioni che hanno imposto l'obbligo, alcune stanno distribuendo casa per casa, lo hanno fatto il Veneto e lo sta facendo la Toscana, altre invece hanno deciso di muoversi in maniera diversa, come per esempio la Lombardia. E poi c'è tutta la questione della speculazione. Roberto Tobia è il segretario nazionale di Federpharma, la federazione nazionale che rappresenta le oltre 16.000 farmacie private convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale, insomma le farmacie. Tobia, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a lei e all'ascoltatore. Maria, prego, vai. Buongiorno. Tu. Buongiorno. Allora, il tema delle mascherine necessita di un chiarimento preliminare prima di tutte le altre domande. Ne avete di disponibili? Quando saranno disponibili in tutte le regioni? Chiariamo il preliminare prima di andare alle altre domande. Allora, è chiaro che la abnorme richiesta di mascherine che abbiamo subito nelle nostre farmacie da parte dei nostri pazienti all'inizio è stata veramente fortissima. E la distribuzione intermedia alla quale ci siamo rivolti per approvvigionarci, avendo difficoltà nell'approvvigionarsi da parte dell'industria, non aveva a disposizione in quantità sufficiente tutte le mascherine che hanno richiesto i nostri pazienti. È chiaro che oggi la situazione sta migliorando un po' perché la produzione mondiale sta adeguandosi alle richieste e un po' perché la distribuzione intermedia piano piano, in via sicuramente contingentata, riceve le forniture e le smista alle farmacie. Quindi piano piano stanno arrivando, forse un po' sì, troppo piano, Tobia, rispetto alla richiesta. Questo sicuramente non dipende da noi, perché le nostre richieste sono continue e sono pressanti. Le abbiamo chieste anche per difendere le nostre attività, per difendere i nostri collaboratori dal possibile contagio da parte dei nostri clienti che arrivano nelle farmacie per cercare non solo le mascherine ma anche i farmaci, chiaramente come succede in tutte le farmacie d'Italia, e sono soggetti deboli, soggetti cronici, soggetti che potenzialmente potrebbero essere in qualche modo infetti. Lo abbiamo chiesto con forza al Ministro, abbiamo pagato un prezzo sicuramente alto anche in termini di vittime, sono già 6 colleghi deceduti per il coronavirus, tra i farmacisti e tantissimi purtroppo i contagiati. Aspetti, Tobia, allora trovi un assetto telefonico che funziona, cioè tenendo la bocca vicino alla parte dove si parla del suo telefono, perché sennò perdiamo dei pezzi inutilmente. Prego. Prego. Dicevo, l'abbiamo chiesto al Ministro, l'abbiamo chiesto in maniera forte e determinata, anche perché tra i nostri farmacisti purtroppo abbiamo già annoverato diverse vittime. Sono 7 i farmacisti, i colleghi deceduti, un prezzo altissimo e tantissimi purtroppo i contagiati. È una problematica seria che riguarda in primis la difesa della farmacia. Abbiamo messo in atto delle misure preventive per cercare il distanziamento sociale, costruendo degli schermi in plex, dotando i nostri collaboratori delle poche mascherine che siamo riusciti a trovare sul mercato, però sembrerebbe che la situazione man mano, piano piano, purtroppo lentamente, stia migliorando e qualche lotto di però abbiamo adesso sì abbiamo qualche problema. Diceva qualche lotto comincia fortunatamente già ad arrivare. Maria, prego. Quante possibilità ci sono che non vengano esercitate delle speculazioni sui prezzi delle mascherine? Potete fare degli interventi su questo, controllare che anche i vostri stessi farmacisti, perché ci sono state anche delle segnalazioni in questo senso, non approfittino della situazione? Guardi, ci siamo mossi in maniera assolutamente ferma. Abbiamo segnalato tutte le nostre associazioni regionali e le nostre comuni provinciali di evidenziare se ci fossero alcuni fenomeni distorsivi del mercato con fenomeni di aumento importante sul prezzo di acquisto. È chiaro che se il prezzo d'acquisto è alto, il farmacista, pur operando un minimo ricarico, venderà ad un prezzo più alto. Ecco, è un'azione sulla quale siamo... Giusto per una mascherina, mi scusi. Non ho sentito, scusi. Qual è il prezzo giusto, il prezzo corretto per una mascherina? Questo l'abbiamo chiesto in termini di ricarico alle autorità competenti. Purtroppo non possiamo andare contro le norme del libero mercato. Se la farmacia acquista una mascherina a 10 euro, la venderà a 12, la venderà a 13, la legge sul commercio permetterebbe anche di venderla a prezzi sicuramente più alti, ma per una questione morale il nostro consiglio è quello di operare il minimo ricarico, anche per dare la possibilità a tutti gli utenti di approvvigionarsi per la propria, per la difesa della propria salute. È chiaro che siamo molto attenti su questo e abbiamo dato disposizione, come dicevo prima, alle due regionali e alle associazioni provinciali di segnalarci casi distorsivi. Sono stati segnalati pochissimi casi su 19.000 farmacie presenti sul territorio nazionale, che si contano sulle dita di una mano, e noi come Federfarma Nazionale ci costituiremo parte civile negli eventuali procedimenti che saranno presi nei confronti di questi colleghi che in qualche modo volessero approfittare di una situazione emergenziale come quella che vive oggi il paese. Non abbiamo, sicuramente non faremo sconti, non abbiamo alcuna intenzione di farlo. Senta, che segnalazioni avete dalla Lombardia, dove, lo ricordiamo, c'è stata un po' di confusione perché domenica è arrivata l'ordinanza che imponeva l'obbligo dell'utilizzo della mascherina nei luoghi pubblici, dopodiché non si è capito bene se la dovete distribuire voi, se la distribuiscono casa per casa. Mi scrive un ascoltatore adesso, mi dice nella Bergamasca, in alcune zone della Bergamasca lo stanno distribuendo casa per casa, però non è molto chiaro, a dire il vero. Non c'è alcun dubbio, la situazione non è molto chiara, siamo in attesa di disposizioni più chiare per capire se insieme ad altre attività commerciali che rimangono aperte, anche le farmacie, come ci è stato detto, saranno protagoniste della distribuzione delle mascherine. Io vorrei evidenziare un altro aspetto che secondo me è fondamentale, è quello dello sconfezionamento delle mascherine stesse. Abbiamo avuto una serie di interlocuzioni con il Ministero e con la protezione civile per permettere alle farmacie di vendere le mascherine anche singolarmente. Questo perché nella piena interpretazione di quello che è il decreto legge della Presidenza del Consiglio, che fino al termine di questa emergenza dà la possibilità di produrre, importare e mettere in commercio mascherine e dispositivi di protezione in deroga alle diverse disposizioni, riteniamo che proprio per soddisfare l'esigenza di più di quanti più pazienti possibili debba essere resa la possibilità alle farmacie, come è stato più volte detto per le vie brevi e come abbiamo interpretato giustamente a mio avviso il decreto della Presidenza del Consiglio, singolarmente ai singoli pazienti, anche perché sarebbe veramente illogico non dare la possibilità a tutti di approvvigionarsi e di vendere un pacco da 50 mascherine piuttosto che da 20 a un solo paziente e negarlo al paziente successivo in coda alla farmacia. Questo peraltro crea un grosso problema, che è quello delle potenziali speculazioni, delle forme di accaparramento che potrebbero essere o sono già state gestite, ne ho testimonianza certa, nelle grandi città del sud, dalla malavita organizzata che viene nelle farmacie, acquista 100 mascherine, due pacchi di mascherine e li vive nel mercato nero. Il nostro ruolo sociale ci impone di dare una possibilità a tutti di essere a servizio del cittadino e di distribuire mascherine a quanti più soggetti possibili. Credo che sia un atto dovuto e certamente non ci aspettiamo che su queste attività la Guardia di Finanza piuttosto che le autorità del nucleo antiterroristicazione possano in qualche modo sanzionare le farmacie. Questo sarebbe veramente grave e a mio avviso un atto quantomeno scortese nei confronti di professionisti che sono al fronte tutti i giorni e lo fanno con amore, dedizione, senso di responsabilità, mettendo molto spesso a rischio anche la loro incolumità personale. Prima di, non so se hai altre domande, Maria, però insomma, intanto fammi dare un chiarimento ulteriore agli ascoltatori. Allora, molti ci stanno scrivendo: sono andato nella farmacia vicino casa e ho trovato la mascherina me l'hanno fatta pagare 10 euro, ci stanno speculando. Qua il caso, Tobia, è quello che dicevamo prima, cioè questo è un momento nel quale voi stessi come farmacisti, non è per difendervi, no, perché poi ci saranno casi di speculazione, qualcuno ce ne sarà e l'abbiamo detto, e però insomma voi stessi, le vostre stesse farmacie insomma pagano le mascherine quanto le trovano sul mercato, e quindi se la paghi 10 euro il pacchetto a 5 di mascherine, poi con quel minimo di ricarico che ci mettete, insomma il prezzo è quello, non è la speculazione della farmacia. Assolutamente vero, no? Ha accentuato perfettamente l'obiettivo. Non mi risultano davvero casi di speculazioni eclatanti, tranne i pochi che le ho segnalato, ma che sono veramente irrisori rispetto al numero di 19.000 farmacie presenti sul territorio, e su questi saremo inflessibili. È chiaro che in questo momento anche i nostri pazienti che magari hanno un parente che deve recarsi presso l'ospedale per fare chemioterapia, piuttosto che deve recarsi a ritirare presso la farmacia ospedaliera un farmaco diretta dall'ospedale stesso, ci chiedono: mi trovi una mascherina a qualsiasi prezzo, perché non posso mettere a repentaglio la mia vita o quella del mio familiare. Quindi questo è quello che stanno facendo oggi le farmacie, non c'è alcun dubbio che lo stanno facendo con grande professionalità. Sì. Come prima di salutarla, Tobia, come mai non si trova l'alcol? È lo stesso problema, ci sono stati casi di accaparramento in qualche momento iniziale. La grandissima richiesta ha messo in crisi anche le aziende di produzione. In alcune regioni l'alcol è stato posto sotto sequestro dalle autorità competenti per gli utilizzi ospedalieri, e quindi anche lì manca la produzione, che però piano piano sta cominciando a rifornire i distributori intermedi e quindi anche le farmacie. Grazie Roberto Tobia, segretario nazionale di Federfarma, per essere stato con noi. Buona giornata. C'è una pausa, ci ritroviamo subito dopo con Emanuele Orsini, presidente di Federlegno, che è stato tra i primi a criticare alcuni aspetti del decreto che oggi troviamo sui cui problemi del decreto, quello per la liquidità delle imprese, del quale tra l'altro lo specifico ancora, non abbiamo ancora il testo, insomma, del quale trovate tracce un po' sui giornali di oggi. A tra poco. Mattino. Torna da noi Emanuele Orsini, presidente di Federlegno Arredo. Buongiorno Orsini, bentornato. Buongiorno, buongiorno a lei. Maria, prego. Maria? Lei è stato, come dire, l'autore di una presa di posizione piuttosto dura contro il decreto per la liquidità alle imprese che, lo ricordiamo a chi ci ascolta, introduce un sostegno al 100% per le piccole imprese. Questo è un fondo di garanzia per prestiti fino a 6 anni a piccole e medie imprese e piccoli professionisti per una cifra che non è altissima, 25.000 euro, ma questo è. E poi una copertura al 90% invece fino a 800.000 euro, che questa mi sembra che possa essere un impegno più gravoso anche per lo Stato. E poi c'è SACE che garantirà con 200 miliardi contro garantiti dallo Stato le imprese di ogni dimensione. Il suo allarme nasce soprattutto dal fatto che il meccanismo per ottenere questi prestiti, a parte quello per 25.000 euro che è più rapido, ma sembra macchinoso. Ci spiega come lo cambierebbe? Beh, io mi faccio dire che partirei dal presupposto che la media di marzo degli insoluti del nostro settore è del 30% e di tutta la filiera, perché è logico che se noi abbiamo cercato di lanciare un appello nell'eticità di pagare tutti per mantenere viva la filiera e purtroppo qualche pagamento è saltato. Riteniamo che a fine aprile, se non c'è un qualche strumento rapido, smart, facile da poter utilizzare, la mappatura è di arrivare a un 70% di insoluto, come dire, i grandi, sicuramente le nostre aziende le più strutturate si organizzeranno con le banche da sole, ma le piccole soffriranno tantissimo e non ci possiamo permettere di perdere le persone che in ogni modo stanno attorno a noi, che fanno grande le nostre aziende. Beh, noi guardi, 2 o 3 giorni prima, perché noi la bozza l'abbiamo avuta in mano, abbiamo potuto dire le nostre osservazioni e noi l'unica cosa che avevamo chiesto era di dare un meccanismo semplice. Lo stesso Patuelli stamattina, leggendo una sua intervista, dichiara che insomma non sarà così semplice, non sarà così veloce. Benissimo, anzi sono contentissimo del fatto che i 25.000 euro tengano in vita almeno i piccoli, ed è questo per me bene, perché voglio dire, spero che sia con procedure molto rapide. Sul resto, dove serve un 90%, non ci dobbiamo dimenticare che ci vuole un passaggio dall'Europa e quindi l'Europa ci deve dare l'ok per poter utilizzare quella SACE per poter fare, dare i fondi al 90%. E quindi io non mi aspetto, visto che mancano 22 giorni a fine mese di aprile e noi ci dobbiamo organizzare, perché le imprese si devono organizzare, perché si paga o non si paga, noi non possiamo dire aspettiamo qualcheduno per pagare, abbiamo bisogno di cose rapide. E altra cosa che bisogna che noi ci diciamo, che in caso in cui passa il 90%, la differenza del 10% della garanzia deve essere data dalla banca, perché è logico che la banca fa banca, cioè quindi non è che è lo Stato che garantisce. E quindi torniamo nel fatto di dover fare delle istruttorie e quindi ci metteremo altro tempo. Noi abbiamo chiesto cose semplici, ma lo ha chiesto, non l'abbiamo chiesto noi, abbiamo chiesto tutto il mondo confindustriale, perché il presidente Boccia ha chiesto di dare fondi al 25% in modo molto semplice con rientro di 30 anni. Io credo che ci siano diverse anomalie. La prima è quella di non avere tutti al 100% come garanzia. Io ricordo che i vicini della Svizzera, con una posta certificata, loro riescono a ottenere i soldi, la Francia c'ha un PIN. Noi abbiamo la necessità di essere veloci, perché senza velocità faremo fatica a mantenere gli impegni. Noi abbiamo chiesto il 100% con il 25% di fatturato, e abbiamo chiesto che questo possa essere spalmato non in 30 anni, perché capiamo che ognuno di noi deve fare la propria parte, ma non può essere un rientro in 6 anni. Molto bene, leggo il preammortamento fatto dei 24 mesi, quindi per 2 anni vuol dire che lo Stato ha capito che nessuno di noi farà utili. però il rientro di 6 anni, cioè che diventano 4 perché i primi due anni noi non pagheremo nessun interesse, gli altri 4 sono pochi per poter entrare, perché gli utili per poter recuperare un 25% di fatturato sarà poco. No, quello, mi scusi Orsini, quello che ci aveva fatto capire ieri il sottosegretario Baretta è che in realtà i tempi di rientro erano quei 2 anni, diciamo, di sospensione più altri 6, e quindi sostanzialmente 8 anni, non 2 più 4. Voi dalle ultime bozze, perché poi tra l'altro questa cosa surreale per la quale non abbiamo ancora il testo a 2 giorni al Consiglio dei Ministri, però insomma, lasciamo stare, e voi che cosa ne sapete su questo? Guarda, io dico che il testo che ho letto io, che ho visto io, insomma, che noi abbiamo, di cui noi abbiamo potuto dare le nostre osservazioni, perché insomma, rappresentiamo sempre un 5% del PIL industriale italiano, nelle nostre osservazioni abbiamo detto guardate che servono 10 anni, nel testo è 6 anni, perché c'è scritto che si rientra in 6 anni, di cui 2 di preammortamento. Ah, poi il testo è stato cambiato, io è logico che sono solo molto più contento di avere 2 anni in più, perché da 6 a 8 e da 8 a 10 è vero che c'è la differenza, ma è sempre meglio 8 piuttosto che 6. Detto questo, il vero tema, vede, noi abbiamo il problema che la nostra filiera ha bisogno di riaprire piano piano, perché anche di questo dobbiamo parlare, perché se non possiamo ricominciare noi stiamo perdendo anche quell'affidabilità che gli esteri a noi imputavano, mi faccia dire. Cioè io quando io sono un cliente, un buyer estero che devo comprare un bellissimo divano e penso a un divano italiano, in questo momento dove so che l'Italia è chiusa, dico vabbè, non so quando riapre, non ho la certezza, se devo aspettare una settimana in più l'aspetto, ma se non so neanche quando si riapre, quando si ricomincia, diventa un problema. Stiamo perdendo anche questo tipo di... Mi faccio dire anche una cosa, a parte il fatto che 80.000 aziende sono già aperte in deroga allo stop deciso per contenere l'epidemia, ma forse un errore è stato commesso anche nel modo di comunicare questa evidente necessità di riaprire. Adesso si discute, vorrei sapere che cosa ne pensa, di una proposta che un suo collega, Alberto Baban, ha avviato all'interno di questo gruppo di lavoro che si chiama Minima e Moralia, e cioè quello di far capire che in fondo l'azienda è il luogo più sicuro che ci possa essere, perché se l'imprenditore decide che tutti i dipendenti quando entrano devono sottoporsi al rito della misurazione della febbre, si stabilisce che ci sono delle garanzie di sicurezza, gli ambienti sono sanificati, forse addirittura la fabbrica può essere il luogo in cui si controlla e si verifica la sanità di una comunità. Lei che ne pensa? Cosa pensa di questa proposta? Io credo che le dichiarazioni di Baban sono giuste, ma per un motivo semplice, ma questo credo che lo pensi anche il governo. Cioè oggi la preoccupazione del governo non è la fabbrica al luogo del posto di lavoro, perché noi riusciamo a garantire la distanza, riusciamo a garantire... Ecco, sui DPI faremo fatica a trovarli, li pagheremo quello che stanno a pagare, ma questo non è un problema, è importante riaprire. Il problema è il viaggio arrivare all'interno delle aziende, cioè quindi il vero tema è quello che penso preoccupi al governo, è dover prendere un autobus, dover prendere una metro per dover andare al lavoro. Quindi io credo che quello sia il problema vero. Noi possiamo ripartire, guardi, non al 100%, possiamo ripartire al 50%, possiamo ripartire per fasce d'età, possiamo ripartire a distanze, possiamo fare turni anche notturni pagando i supplementi se serve, perché per l'amor di Dio la necessità di riattivare il motore, ma anche per dare quella spinta psicologica, no, della positività di ricominciare a fare qualcosa. Poi è vero che io credo anch'io che fino a quando, visto che noi in pancia abbiamo anche una grande manifestazione che abbiamo rinviato, che è il Salone del Mobile, credo anch'io che fino a quando non ci sarà il vaccino gli assembramenti non si potranno fare e che sarà tutto diverso fino a quel momento. Però ci dovremo convivere, non possiamo stare in casa aspettando un anno il vaccino, quindi dovremmo piano piano ricominciare le attività in maniera... attento, è logico che vuole decongestionato, cioè tutto quello che è il sistema sanitario oggi, perché mandare ancora più persone in ospedale non tengono, quindi abbiamo la necessità di poter fare sfogare questo, ma lo possiamo fare insieme in modo controllato, lo possiamo fare con i sindacati. Io credo che anche gli stessi sindacati oggi hanno la necessità di fare partire le aziende, perché hanno capito che se le aziende non ripartono, poi tra un po' il vero problema è anche trovare i posti di lavoro per i nostri ragazzi che lavorano da noi. Cosa immagina Orsini per la fase del trasporto, ecco, per la fase dell'arrivo nelle fabbriche e nei luoghi di lavoro? Vi siete fatti un'idea, un'ipotesi, avete dei suggerimenti da dare? Beh, anche qui io credo che debba essere fatta una mappatura, no? Cioè, voglio dire, perché il tema è, qui ci sarà un altro tema che è un tema importante che non va sottovalutato, cioè il fatto chi ha dei figli è logico che le scuole sono chiuse, quindi si dovrà andare a fare una grande mappatura. Io all'interno della mia azienda avrò delle persone, molte persone lavorano in smart working perché possono continuare a farlo, che è quello che sono tutto il tema amministrativo, tutta la parte anche commerciale. Sulla parte produttiva li si andrà a mappare, cioè ci sarà la persona che verrà oggi, noi avremo una grande flessibilità nei confronti delle persone che lavorano da noi, cercando di mettere insieme tutte le necessità, perché se va a lavorare la moglie, il marito starà a casa con i figli e altrettanto viceversa. Quindi noi dovremo mettere a sistema un po' di cose fino a quando tutto il sistema non sarà ripartito. Però l'importante è riaccendere il motore. Noi abbiamo contract che stanno aspettando di fuori dall'Italia i nostri mobili o le nostre strutture di legno. È logico che fino a quando tutto è bloccato, loro ci possono aspettare per un po', ma non possono aspettarci ancora per molto, perché stanno lavorando in forze ridotte, però l'Europa sta lavorando, cioè noi siamo l'unico paese veramente tutto chiuso. La ringrazio, grazie Emanuele Orsini, presidente di Federlegno Arredo, per essere stato con noi. Buona giornata. Buona giornata, Orsini. E speriamo di ricominciare presto. Giulio Gallera, assessore al welfare della Regione Lombardia, assessore alla salute. Gallera, buongiorno, bentornato ai nostri microfoni, eccoci qua. Maria, prego. Buongiorno assessore, senta, vorrei partire da Alzano e mi dica se la ricostruzione che faccio è corretta o meno. Il 22 febbraio un pensionato di Villa di Serio viene trovato contagiato dal coronavirus. Il 23 febbraio il pronto soccorso dell'ospedale di Alzano viene chiuso, ma solo per poche ore, e poi riapre senza sanificazione. Non viene avvisato il Ministero della Salute di questa situazione. Lunedì l'ospedale di Alzano riapre per la normale attività e in pochi giorni i contagi esplodono. Voi come regione eravate stati avvisati di questo comportamento dell'ospedale e perché non avete, quando l'avete saputo, non avete disposto la zona rossa per Alzano e per Nembro? Perché lei stesso ieri nella trasmissione Agorà ha ammesso che c'è una legge regionale che vi dava questa possibilità, così come l'hanno applicata in altre regioni, penso al Lazio con Fondi, penso all'Emilia Romagna. Perché non avete provveduto per tempo, Gallera? No, la ricostruzione non è come l'ha fatta lei. Il 22 si fa un tamponamento ad una persona, il risultato arriva il 23, immediatamente dopo il risultato viene chiuso il pronto soccorso, sanificato i locali e riaperto su indicazione con la condivisione di Regione Lombardia, così come abbiamo fatto a Codogno, perché gli ospedali devono essere i luoghi che accolgono i malati. Contestualmente vengono fatti i tamponi a tutto il personale e ai malati che avevano delle polmoniti che in qualche modo interstiziali. Quindi viene mappato subito i contagi, vengono dati le indicazioni poi all'ATS per fare il lavoro sui contatti diretti dei malati, e questo arriva il 23, nel giorno dal 23 e il 24. La situazione di Alzano è una situazione che si sviluppa nel tempo, alcuni giorni in successione. Il 23, come voi sapete, noi assumiamo subito un provvedimento, che è l'istituzione, la assume il governo, l'istituzione della zona rossa di Codogno l'assume il governo, perché noi sin da subito adottiamo un modello di condivisione con il governo di ogni scelta. Venerdì 21 il Ministro della Salute viene in Regione Lombardia, quindi a 14 ore, anzi a 12 ore dal primo evento, condivide con noi un primo provvedimento che si assume a firma Speranza Fontana il venerdì sera. Domenica il Presidente del Consiglio manda le forze dell'ordine a chiudere Codogno e il Presidente Fontana, d'intesa con d'intesa con appunto con il governo, prende alcuni provvedimenti sull'intera regione Lombardia. La situazione, l'1 di marzo c'è un nuovo provvedimento del governo che stringe le maglie su Bergamo, su Brescia, su Piacenza, su Cremona, chiudendo alcune attività commerciali. A quel punto la situazione, che è cresciuta in maniera disallineata rispetto a Codogno, cioè meno e progressiva, vediamo che è più articolata e consistente. Quindi ci mettiamo subito in contatto con l'Istituto Superiore di Sanità, teniamo monitorato l'1, il 2, il 3, io e il mio direttore parliamo personalmente con il dottor Brusaferro e con lui condividiamo la necessità di chiedere la zona rossa, e l'Istituto Superiore di Sanità ci dice: noi stiamo facendo un verbale che mandiamo al governo per chiedere la zona rossa. Quindi lo condividiamo tutto questo al telefono e questo appare nel verbale del comitato tecnico scientifico del governo. Il 4 arrivano i militari ad Alzano, sì, arrivano molte camionette, e questa è l'evidenza che la nostra richiesta fatta all'Istituto Superiore di Sanità è stata presa in considerazione dal governo, che addirittura manda le camionette. Passa il 5, passa il 6, noi eravamo in attesa anche in contatto con i prefetti della formalizzazione. Quindi in quel momento l'assunzione di un'ordinanza da parte del governatore appariva, voglio dire, originale, col fatto che il governo addirittura aveva già dislocato le forze armate e le forze dell'ordine. Il 7 il governo fa la zona rossa su tutta la regione Lombardia, vi ricordate, quindi impedendo l'uscita dagli spostamenti. Quindi a quel punto fa una zona rossa molto più ampia, che ha la stessa efficacia di quella che è la zona rossa di Codogno. Senta, questa è l'indicazione temporale. Questa è la ricostruzione che fate. Quindi, allora, due cose. Innanzitutto, questa vicenda dell'ospedale di Alzano, del pronto soccorso di Alzano, che non è stato sanificato, è falsa. Cioè lei ci dice il pronto soccorso è stato sanificato. E questo è un primo punto. La seconda cosa, molto semplicemente, non vi imputate alcun errore come Regione Lombardia, per esempio di muoversi più celermente appunto sulla zona rossa che effettivamente potevate fare, come lei ha detto ieri, di Alzano e Nembro? E ripeto, cioè, nel momento in cui il governo sta assumendo una decisione, ma ha senso secondo lei che io, sapendo che il governo la sta prendendo, la prendo 4 ore prima, poi ci si accusa di non avere una sintonia istituzionale? Noi abbiamo condiviso passo passo col governo qualunque tipo di decisione assunta in questi mesi, e quando abbiamo preso delle ordinanze l'abbiamo fatto perché il governo ha detto a noi e alle regioni: voi potete, voglio dire, prendere misure più restrittive di quelle che facciamo. In quei giorni lì il governo ha dato evidenza che stava procedendo, sarebbe stato assolutamente, vuol dire, non solo originale ma curioso che una regione, sapendo che il governo lo stava facendo, si muoveva, no? Assessore, che cosa risponde a quanti rimproverano, non certo a lei e a Fontana che siete lì da poco tempo, ma insomma a quanti rimproverano nel passato delle scelte politiche fatte dalla Regione Lombardia una sorta di così trasferimento di fondi e attenzione al privato e meno fondi e meno attenzioni al pubblico, così che quando è arrivata l'epidemia, quelle che erano le strutture di primo ingresso, i pronti soccorsi, gli ospedali, i reparti di terapia intensiva, non erano pronti a sostenere questo impatto travolgente. Ma guardi, il sistema sanitario lombardo è un grande sistema e proprio ha dato dimostrazione oggi di saper reggere, proprio per la sua grande forza, duttilità. La sua azione riguarda il passato. Esatto, ma nel passato, voglio dire, oggi abbiamo dimostrato di avere un sistema costruito così forte che ha retto. Nessun'altra regione sarebbe stata in grado di più che raddoppiare i posti letto di terapia intensiva. Il governo è quello che deve costruire le strategie sulle pandemie, a noi aveva dato un'indicazione di aumentare del 50% i posti letto di terapia intensiva. Bene, noi tra pubblico e privato accreditato li abbiamo aumentati del 120%. Questa è la forza di Lombardia che ha consentito alla regione di reggere, e il mix pubblico-privato in questo caso ha dimostrato di fare squadra nella maniera più totale. Fin da subito i privati hanno accolto i pazienti Covid, hanno messo a disposizione le terapie intensive, abbiamo bloccato dappertutto l'attività programmata. È stato un grande sistema che ha lavorato insieme. Anzi, questa è la dimostrazione che le scelte fatte nel passato sono state scelte giuste. Mi perdoni Gallera, lei dice abbiamo retto, ma a che prezzo? C'è un prezzo di morti impressionante che nessun'altra area in Europa, forse adesso solo la Spagna, può tristemente contare. Beh, però forse se voi paragonate quello che è successo in Regione Lombardia, quello che è successo in Veneto o quello che è successo nelle altre regioni, allora forse non avete capito che cosa è successo nella nostra regione. Che per fortuna degli altri, per sfortuna nostra, quello che è successo nella nostra regione è che è arrivato qualcuno a fine gennaio e che per 20, portando il virus, dicono dalla Germania, e che per 20 giorni questo virus è girato indisturbato nella nostra regione, perché è stato portato da pazienti asintomatici che non avevano nessun collegamento con la Cina e quindi non erano identificabili, perché peraltro nessuno è arrivato con delle condizioni così con quel tipo, cioè una polmonite interstiziale e un contatto con un luogo a rischio, in quel caso la Cina. Questo è quello che è successo nella nostra regione Lombardia, perché in Veneto, dove sono stati molto più fortunati, l'unico primo focolaio sono riusciti a recuperarlo subito perché era un paziente che arrivava da una zona a rischio, cioè Codogno. Sono riusciti a individuarlo e quindi a soffocare il virus, la diffusione del virus, che è quello che abbiamo provato a fare noi, purtroppo rendendoci conto che in 20 giorni il virus era arrivato a Codogno, a Lodi, a Cremona, ad Orzinuovi con la fiera del Fieno, ad Alzano, quindi si era così sparpagliato che ha creato un'ondata e uno tsunami che non ha pari in nessuna regione italiana e probabilmente in nessun paese dell'Europa, perché poi in Europa è arrivato in maniera molto più parcellare. Quindi voi dovete ringraziare e rendervi conto della guerra che abbiamo vissuto qua. Ascolti Gallera, c'è la questione, le chiedo in breve perché siamo quasi in chiusura, si parla molto del Pio Albergo Trivulzio di Milano naturalmente, ma il tema è più largo, riguarda tutte le residenze per anziani, e qua c'è un numero di morti che presumibilmente è molto più alto di quello che contiamo e che forniamo e che lei stesso fornisce quotidianamente. E i numeri che vengono dati quotidianamente sono il numero dei positivi tamponati, e quindi secondo le indicazioni sotto presenta coloro che di fatto hanno. No, ma non ospedale. È un attacco, Gallera, no, dico no, semplicemente no, no, no, che c'è un sommerso. Le stavo dicendo, il sommerso quindi è chiaramente molto più ampio, alla fine lo conteremo sia sui territori sia nelle RSA. Noi sulle RSA, che ricordiamo, le sono strutture private, gestite da privati, che quindi devono organizzarle e hanno la responsabilità. Noi abbiamo un compito di sorveglianza che abbiamo eseguito, e adesso abbiamo anche fatto una commissione per capire se le tante indicazioni che noi abbiamo dato sono state rispettate. Ripeto, o però partiamo dal presupposto che ahimè qui abbiamo avuto il fungo della bomba atomica, e guardate che alla fine vedremo ahimè i numeri di tutto questo e non si discosteranno molto, che ha travolto in maniera indistinta sui territori, negli ospedali, nelle RSA, le persone più fragili, e su cui purtroppo l'uomo ha dimostrato di essere fragile, nel senso la società ha dimostrato di essere fragile. Questa è l'amara constatazione. Grazie Giulio Gallera, assessore al welfare e alla sanità della Regione Lombardia. Avremo tante altre domande, ma dobbiamo chiudere. Buona giornata, buon lavoro. Buona giornata, naturalmente. Assessore. Cara Maria, ci sentiamo domani alle 8:20. Ebbene sì. Ciao, grazie a tutti. Con tutti gli altri alle 6:30. Ciao.